Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Allora, puntata dedicata alle domande. Per esempio, perché se acquisto una chiavetta USB devo pagare soldi alla SIAE? Perché se scrivo su Facebook che Luca Dello Iacovo, che qui mi guarda, è un truffatore, è un cialtrone, lui mi può denunciare, io rispondo come se fossi un giornale o un'emittente televisiva? E che cosa bisogna fare quindi in questo caso? Esatto, risposte ci saranno tutte oggi, ma prima le news. Banda larga per l'accesso a internet con una velocità fino a 100 volte superiore rispetto alla media. È l'obiettivo annunciato da Google sul suo blog. Lo scopo è di raggiungere 500.000 persone e permettere applicazioni ad alte prestazioni, come la visione di immagini tridimensionali. Ancora Google. In Iran, l'Agenzia per le Telecomunicazioni ha sospeso a tempo indeterminato Gmail, il servizio di posta elettronica lanciato nel 2004 dal motore di ricerca. Teheran progetta una piattaforma nazionale per inviare e ricevere email. Da Mountain View è arrivata la conferma di un'improvvisa caduta del traffico dall'Iran. Si comincia a capire qualcosa in più sull'iPad della Apple. La casa di Cupertino, secondo il Financial Times, potrebbe iniziare a vendere show televisivi americani a $1, ovvero la metà dell'attuale prezzo di vendita su iTunes. Potrebbe farlo, scrive il quotidiano britannico, quando il tablet iPad raggiungerà gli scaffali dei negozi. Il test della vendita di programmi TV dovrebbe iniziare in aprile, in coincidenza con il lancio dell'iPad. Per verificare se a un costo ridotto le vendite saliranno. Alcuni network sono disposti a tagliare i prezzi dopo mesi di negoziazioni. Facebook ha cancellato le pagine di 30 detenuti britannici in seguito alle proteste del Ministero della Giustizia di Londra, dopo che i carcerati avevano utilizzato il social network per comunicare con dei complici all'esterno o minacciare altre persone. Allora, noi siamo in collegamento con Guido Scorza, avvocato, una delle voci più critiche e più interessanti della rete. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei. E ricordo, proprio perché insomma c'è un avvocato qui con noi che si occupa di diritto informatica, diritto internet, che ha seguito e che sta seguendo il decreto sull'equo compenso, insomma l'invito agli ascoltatori è di chiamare, di fare domande, di chiedere insomma se qualche aspetto non è chiaro. Diamo il numero 824-00-24 per chiamare in trasmissione, 349-238-6666 via SMS. E a Guido Scorza, come prima cosa, potremmo chiedere se appunto il decreto dell'equo quali conseguenze ha avuto il decreto dell'equo compenso. Magari prima però presentiamo una scheda sull'equo compenso, così in modo tale che tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando, e poi torniamo subito qui con Guido Scorza. Polemiche sul decreto dell'equo compenso per copia privata. L'associazione Altro Consumo ha presentato un ricorso alla Commissione europea. L'equo compenso è una quota anticipata sui diritti d'autore. Stabilisce aumenti di prezzo per dispositivi che consentono la memorizzazione e la fruizione di opere audiovisive. È un'ampia categoria che include DVD, chiavette USB, computer, hard disk esterni e telefoni cellulari in grado di riprodurre filmati e musica. Le somme corrisposte dai consumatori saranno versate attraverso la SIAE ad autori ed editori. L'equo compenso è già applicato in Germania, Spagna e Francia. Allora, avvocato, so che lei sta seguendo molto da vicino questo decreto. È stato definito una tassa sul futuro, una tassa che i produttori di tecnologia devono pagare e non vogliono pagare. Dall'altra parte è stato detto, ma guardate che in tutta Europa c'è una legge sull'equo compenso, solo in Italia siamo esclusi. Insomma, come stanno le cose? Ma come spesso accade, la verità è un po' nel mezzo. Fuori di dubbio intanto che l'Italia con questo decreto abbia, come dire, fatto pendere la bilancia tutta dal lato dell'industria audiovisiva in danno dell'industria tecnologica. Dicevo che la verità è un po' nel mezzo, in quanto se è vero che un provvedimento in materia di equo compenso è in vigore nella gran parte dei paesi europei, non corrisponde affatto al vero che il metodo utilizzato nella più parte dei paesi europei sia quello scelto dalle legislatore italiano, ovvero tassare un comparto industriale, quello tecnologico, quello dei supporti e degli apparecchi idonei alla registrazione di fonogrammi e di videogrammi, di musica e di video, per portare denari nelle casse dell'industria audiovisiva. Altrove quindi si tratta di una tassa? È uno degli aspetti naturalmente più dibattuti. Dal mio punto di vista non c'è alcun dubbio che si tratti di una tassa, poiché almeno per come è stata implementata questa normativa in Italia, in realtà non esiste nessun rapporto tra la copia privata effettivamente effettuata dall'utente di un supporto di un apparecchio e il prezzo che questo utente è chiamato a pagare. C'è semplicemente lo Stato che obbliga ogni fabbricante, importatore o distributore di supporti soltanto astrattamente destinati ad essere utilizzati per la copia privata a pagare un determinato tributo. Quindi siamo di fronte a quella che secondo me è una prestazione patrimoniale imposta che ha certamente natura tributaria. Ecco, avvocato, il dato singolare, mi dica se sto sbagliando, è che insomma viene tassata la memoria, cioè l'hard disk, la memoria per registrare i dati, per cui in linea teorica anche un cellulare potrebbe, che ha dentro al suo interno una memoria, può essere soggetto alla tassa. Per cui insomma, per intenderci, io dentro il cellulare c'ho le foto di Luca Dello Iacovo, nella peggiore delle ipotesi, però magari nella migliore delle ipotesi della famiglia è così, e non vedo ragione per pagare una tassa agli autori nel momento in cui lì di autori non ce ne sono. È vero che potrei caricarci dentro un film, una canzone, però insomma. Ha perfettamente ragione. Intanto cominciamo col dire, forse è una brutta notizia, ma è una notizia, che in realtà il decreto Bondi sull'equo compenso prevede esattamente un importo proprio per gli apparecchi cellulari, di un importo fisso, sono 0,90 centesimi per ogni apparecchio cellulare importato in Italia. Quanto poi alla sua acuta osservazione, secondo la quale naturalmente non è detto che se ho un cellulare lo utilizzerò per ascoltare musica o per vederci sopra un film, questo è quello che fa di questa tassa, o se vogliamo non passare il termine, di questo compenso, una sorta di, secondo me, tassa sulle intenzioni. Lo Stato decide di imporre il pagamento di un compenso dando per presupposto che la più parte di certi supporti o apparecchi saranno destinati proprio per effettuare una copia privata di un'opera protetta da diritto. Naturalmente tutti sappiamo che non è così. La tassa sulle intenzioni mi sembra un po' come la storia della guerra preventiva, no? È simile il principio. Noi abbiamo Giulio da Roma, buongiorno. Anzi, buon pomeriggio. Mi dica. Allora, io sono uno studente universitario, sì? Ho 25 anni, sì? E studio queste materie, studio editoria e sistemi informativi. E a differenza di molti dei miei coetanei e della gran parte degli italiani, sono favorevole all'equo compenso. Ottimo, ci spieghi. L'avvocato prima sosteneva. Non sono né figlio di un discografico né un discografico, lo sottolineerei. Il signore prima sottolineava quale danno l'equo compenso produrrebbe alla tecnologia, però non si è domandato fino ad oggi quale danno la tecnologia ha causato all'opera dell'ingegno. Il problema, secondo me, è da un punto di vista di chi non ha rispettato e che continua a non rispettare la legge. I CD, dopo tutto, lo vediamo, certo, per le strade, come vengono utilizzati per masterizzare fonogrammi, opere tutelate in maniera veramente impressionante. Certo, Giulio, non ci deve sconvolgere se viene tassata, e non è una tassa, ma è un equo compenso, una memoria fisica, un hard disk. Anche una musicassetta è una memoria, tecnologicamente parlando. Anche il vinile è una memoria, tecnologicamente parlando. Di fatto non cambia nulla, si estende semplicemente la possibilità, i termini tecnologici, cioè la musicassetta è una vecchia tecnologia, ma la tecnologia oggi è anche il cellulare, anche col cellulare si possono fare queste cose. E quindi sarebbe in effetti un modo di remunerare gli autori per quello che perdono con la pirateria, è questa quindi la tua opinione? Per quello che perdono con la pirateria, sì. Poi voglio aggiungere un'altra cosa, quant'è questa percentuale? È così alta, o i discografici a parte giustificano l'aumento dei prezzi o le case informatiche e i produttori di software hardware. Ma Giulio, prima di domandarsi se è alta o no, perché poi io temo che la pagheremo noi, perché poi il produttore la girerà sul prezzo al consumo, bisognerebbe chiedersi se è giusta. Sì, certo. Se uno compra un quantitativo di CD, basta andare alla SIAE, penso si trovi in via dell'Altro all'Euro, anche via posta, con una certificazione che quel materiale non viene utilizzato per scopi di registrazione fonomeccanica e i soldi vengono rimborsati. Sì, è tosta però, Questo non si sa, ma è scritto uno. Giulio, è tosta. Sentiamo che cosa ci dice Guido Scorza. Allora, al di là del piacere di incontrare uno studente così competente su un tema tanto di settore... Sì, ma i nostri ascoltatori sono strepitosi. Lo sono, infatti mi fa molto piacere questo, però alcune precisazioni mi sembrano d'obbligo. Innanzitutto non c'è assolutamente nessun rapporto tra la disciplina sull'equo compenso e il fenomeno della pirateria. La disciplina sull'equo compenso non ha assolutamente la finalità di liberalizzare o sanare, tra virgolette, il fenomeno della pirateria. Stiamo parlando esclusivamente di un importo, se vogliamo non chiamiamolo tassa, ma che va a remunerare l'industria discografica a fronte esclusivamente della copia privata che legittimamente l'utente di quell'opera pone in essere. E poi c'è un altro aspetto sul quale mi piacerebbe appunto soffermarmi un attimo, che è proprio quello dei rimborsi. La disciplina italiana sull'equo compenso, e in questo prende abissalmente le distanze da qualsiasi altra disciplina vigente in Europa, riconosce nella SIAE, quindi in una società già monopolista sul versante dell'intermediazione, un soggetto che di fatto sceglie arbitrariamente quali sono le procedure di rimborso e quali sono le ipotesi nelle quali può procedersi a rimborso. È sufficiente semplicemente visitare il sito della SIAE, la pagina rimborsi, intanto per avvedersi che SIAE del tutto arbitrariamente decide di non riconoscere alcun rimborso. Esatto, infatti volevo tornarci tra un secondo. Nova Lab 24. Allora, ricordo il numero di telefono 824 00 24. Abbiamo Guido Scorza, stiamo parlando di equo compenso, stiamo parlando di diritti e di reti. E una domanda che potremmo fare a Guido Scorza perché poi si deve pagare anche nel caso in cui una persona abbia già acquistato un'opera, cioè se io ho già comprato un'opera pagando i diritti d'autore che sono inclusi nell'acquisto, l'equo compenso fa sì che vengano pagati una seconda volta o è un'opinione? Diciamo che la direttiva dell'Unione Europea fissava un principio forse opinabile ma quantomeno logico, secondo il quale una volta acquistato un'opera l'utente ha poi la facoltà di effettuare una copia privata di quell'opera, quindi in qualche modo di moltiplicarla. La moltiplicazione delle copie potrebbe in astratto in taluni casi produrre un danno per il titolare dei diritti. Ecco, l'equo compenso serviva esattamente ad indennizzare e non remunerare, e questo è un altro equivoco piuttosto importante, l'autore per questo danno. Ma è ovvio, e questo è scritto molto bene nella direttiva dell'Unione Europea e non è scritto affatto invece nella disciplina italiana, che questo danno non esiste nemmeno in base semplicemente di ipotesi in tutti quei casi. Pensiamo semplicemente ad un set-top box di Sky piuttosto che ad un iTunes o ad un iPhone, ad un iPod, in cui in realtà il consumatore, l'utente dell'opera è legittimato ad effettuare un certo numero di copie per il fatto stesso di aver perfezionato un contratto di licenza. Io pago anche per poter effettuare la copia privata. Ecco. Nessun tipo di danno viene in questo modo sofferto dall'industria discografica, ecco, o da quella audiovisiva. Prima di passare a un tema sul dei blog, della libertà di espressione in rete, che anche dei social network, c'è Stefano D'Avellino che ci vuole chiedere qualche cosa. Buongiorno Stefano. Buongiorno, salve. Innanzitutto mi faccio complimenti perché questo è un problema molto importante. Io volevo solo sottolineare un fatto. Esistono sul mercato dei software che consentono lo scambio di materiale informatico digitale che può, ovviamente tutti lo sanno, essere coperto da copyright. Ora, lo scambio di queste informazioni, canzoni, film, eccetera, quello che si voglia, possono essere comunque memorizzate su dei supporti. Questa sorta di tassa che andrà a riguardare questi supporti in un certo qual modo rappresenta anche una forma preventiva di quello che dovrebbe essere un'eventuale ipotetica violazione del copyright. In che modo la punibilità del soggetto viene a essere riguardata data, se faccio l'esempio stupido tipico che mi potrebbe anche riguardare, io scarico eventualmente in maniera non legale attraverso un software legale un file, lo metto sul mio lettore MP3 e lo ascolto, nel momento nel quale io ho pagato una tassa su quel supporto e non ho mai comprato quel file audio, questa canzone, in un negozio o anche sui siti che distribuiscono questo tipo di informazioni previo pagamento. Quindi, cioè, se abbiamo capito bene, il problema è che il software è legale, però non è legale, o almeno non è stato pagato il diritto d'autore per il file che hai scaricato e potrebbe, che però ascolti. Non essere legale, potrebbe, perché se effettua una copia, cioè in che modo, la differenza che potrebbe essere sottile è che io presto, tradizio, brevi mano, cioè consegno un CD ad un amico per farglielo ascoltare nel mondo reale e per lo stesso gli passo un'informazione digitale nello stesso modo, perché purtroppo il confine è estremamente labile e potrebbe anche sparire, perché fin quando il supporto audio, il CD, deve essere ascoltato in uno stereo, quindi materialmente deve essere o inserito nell'uno o nell'altro, come si fa la differenza tra un supporto digitale che può essere fisicamente trasportato attraverso un cavo? Ho chiaro fino a un certo punto. Sono molto felice di avere Guido Scorza in trasmissione, perché io e dello Iacolo ci stavamo guardando terrorizzati. Scorza, lei ha capito? Penso sì che l'ascoltatore sollevi due problemi in realtà distinti. Uno, se c'è una differenza sotto il profilo della legalità o illegalità tra prestare un CD ad un amico e lasciare che questo amico si scarichi quello stesso contenuto attraverso un qualsiasi software di sharing, evidentemente, di contenuti. E qui, ahimè, devo rispondere nel senso che la differenza c'è sia dal punto di vista pratico che da quello legale, nel senso che se presto un CD non avviene alcun una duplicazione del contenuto, mentre se la semplice attività di condivisione del contenuto implica in sé una duplicazione della copia. Quindi questa seconda attività è certamente un'attività di carattere illecito. La seconda questione che mi sembra ci abbia posto l'ascoltatore è assolutamente comprensibile, è quella di dire sì, ma poi io di quella copia legalmente o illegalmente effettuata faccio uso attraverso un supporto o un dispositivo per il quale ho scontato l'equo compenso, e allora tutto sanato? E qui la risposta ad una domanda lunga diventa brevissima, cioè no, niente affatto. Nel senso che se poi venisse fermato in possesso di quella copia per la quale non ha pagato un prezzo all'origine, evidentemente non potrebbe dire illecito sanato attraverso il pagamento dell'equo compenso, perché si sentirebbe rispondere. Chiarissimo. Proviamo a voltare pagina, proviamo a occuparci invece della libertà di espressione presunto tale sui blog e sui social network con la scheda. Sono 21 milioni gli italiani su internet. Prima è arrivata l'onda dei blogger, un modo più aperto e dinamico di raccontare. Intrattenimento, notizie, commenti. La diffusione dei bar camp dalla Lombardia alla Sicilia. Gli inevitabili attriti che ogni cambiamento porta con sé. Poi i social network hanno conquistato i riflettori dell'attenzione pubblica. Secondo Nielsen, il 70% degli italiani su internet è entrato in una rete sociale online come Facebook. Scrivono gli aggiornamenti di status, condividono fotografie e video, come fanno da tempo i blogger su internet, ma in uno spazio più limitato e circoscritto. Eppure, i dilemmi per chi scrive su blog e social network sono identici, a partire dai limiti per libertà d'opinione e dall'incerto limite tra vita privata e vita pubblica. Questioni aperte da affrontare ogni giorno. Quindi non c'è differenza tra i blog e i social network? Ma questo è quello che pensano in molti, o meno pensano tutti quelli che guardano l'internet come un oggetto omogeneo, come appartenente o riconducibile ad un'unica categoria. Ovvio che esiste una differenza e che internet è un media che è utilizzabile in mille modi diversi, quindi una cosa è il blog, una cosa è il social network, una cosa ancora diversa è aprire un canale su YouTube. Certo, queste differenze sembrano saltare, essere del tutto abbattute nel momento in cui si leggono talune norme contenute ad esempio nel recente decreto Romani, attraverso il quale il governo vorrebbe dare attuazione o dice di voler dare attuazione alla direttiva europea cosiddetta sull'audiovisivo. Quando è che si capirà qualche cosa di più sul decreto Romani? Quali sono le tappe? Ma ma in questo momento i pareri di Camera e Senato sono tornati al governo, che quindi dovrebbe in qualche modo modificare il proprio testo, sempre che lo voglia. I pareri sono vincolanti e nei prossimi giorni dovremmo poter vedere quali, in che misura il governo avrà tenuto conto delle osservazioni di Camera e Senato. Grazie Guido Scorza. Luca, noi ricordiamo che continueremo a occuparci di questo tema sul quindi su Facebook, quindi facebook.com/novalab24, su Twitter, sul twitter.com, sito di radio24.it e anche sulla mail novalab24@radio24.it. scriveteci, insomma, noi continuiamo a stare qui. Ciao.